Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. La grande macchina si è rimessa in moto e da qui inizieremo oggi. Buonasera, benvenuti a Mebius e sentiamo i titoli di questa puntata. A piccoli passi riparte la macchina più grande del mondo, l'acceleratore di Ginevra. Ma capiamo fino a dove potrà arrivare il suo viaggio verso i fenomeni più profondi dell'universo. Cosa sono e come li useremo? Parliamo dei materiali nanoporosi e delle loro applicazioni tecnologiche. Scienza Under 18. A Milano, 3 giorni dedicati ai giovanissimi. Un'iniziativa che guarda la cultura scientifica delle nuove generazioni nel nostro paese. Nasce il kit per misurare la qualità dell'aria negli uffici. Lo ha messo a punto un gruppo di ricercatori italiani per migliorare la sicurezza sul posto di lavoro. L'insolito caviale, ovvero la sferificazione. L'intuizione del noto chef Ferran Adrià è stasera protagonista della cucina scientifica di Mebius. All'esperimento più bello del mondo è stato dedicato un sito internet. L'hanno progettato alcuni fisici italiani. Buonasera Sergio Bertolucci. Buonasera, come sta? Bene, e lei? Direttore del CERN, direttore di ricerca del CERN, dobbiamo dirlo. Come state in queste ore in cui la macchina ha ripreso a funzionare? Stiamo molto bene perché la macchina fino adesso ha funzionato molto, molto, molto bene, al di là delle nostre previsioni. Più ottimistiche previsioni. Per chi ancora non lo sapesse, ma credo che sia difficile, ormai stiamo parlando dell'acceleratore, l'LHC di Ginevra, da cui si attendono tante cose. Senta però, Bertolucci, dobbiamo incominciare da quella notizia che è girata nelle ultime 2-3 settimane del volatile che stava ancora rompendo l'LHC. Non è così? No, non è così. Era come al solito, era troppo bella per mancarla, una cosa del genere da un punto di vista giornalistico. Abbiamo avuto un paio di settimane fa una caduta di tensione, insomma, un taglio di tensione, un po' come succede un piccolo blackout in una zona della macchina in superficie, dove ci sono uno dei sistemi di raffreddamento della macchina. C'era stato un corto a un trasformatore. Quando siamo andati a vedere che cosa era successo, perché queste cose succedono abbastanza di routine, temporali, ovvio, fulmini, le solite cose, abbiamo trovato un pezzo di baguette carbonizzata e qualche piuma di un grosso volatile, ma non abbiamo trovato il grosso volatile, una gazza, probabilmente un corvo. Un giornalista ha chiamato, aveva visto che si era riscaldato di qualche grado due settori della macchina, che ha chiamato un nostro collega della macchina e lui gli ha candidamente raccontato che avevamo perso questo compressore per un paio d'ore, che voleva dire che in 2 o 3 ore avremmo riraffreddato questo piccolo salto di temperatura, e gli aveva raccontato probabilmente è stato un uccello che ha fatto cascare un pezzo di baguette su un contatto, e questa cosa ha fatto il giro del mondo. Ma io le devo dire però, Bertolucci, che la cosa curiosa, parlando con un po' di gente, è che, come avviene con le leggende, si è subito verificata in molti un misunderstanding, un fraintendimento iniziale. Io ho sentito gente che diceva, pensa, hanno scoperto che si era rotto l'LHC 1 anno e mezzo fa per via di un uccello che aveva fatto il guasto. L'ha sentita anche lei? Sono le leggende metropolitane, sono come i grandi coccodrilli che popolano le foglie di New York, e poi dopo che hanno ammazzato non si sa quante persone, delle manutenzioni. Esatto. Da questo punto di vista diventa, i cortocircuiti sono fantastici. Del resto, l'epoca dell'informazione, una delle cose fondamentali è la selezione dell'informazione, lei mi insegna. Esatto. Bertolucci, le chiedo una sola cosa tecnica e poi invece un'altra, ci ragioniamo insieme rapidamente, che è d'altra natura. Allora, la macchina ha cominciato a funzionare, siete ancora a energie molto basse, insomma, mano a mano crescerà. Siamo. L'obiettivo è trovare grandi cose. Per esempio, appunto, questo bosone di Higgs che dovrebbe darci tante indicazioni su questa cosa che maneggiamo e abbiamo intorno a noi costantemente, che è la massa delle cose, e che va bene. Però adesso adesso appunto che cominciate a lavorare si sente in molti articoli, si comincia a leggere anche in letteratura, è che o lo trovate o se no non è detto che non si possa trovare anche in un altro modo. Cioè potreste fare tutta una serie di esperimenti a cascata per riuscire a... Avete un primo progetto, avrete una prima direzione nella quale potreste trovarlo, ma poi non è detto che invece non ci sia in altro modo, insomma. Ah sì, sì, non c'è dubbio, è un lungo percorso, bisogna trovarlo e bisogna studiare come è fatto, che sono un po' due cose diverse, perché l'IGS più facile che potremmo trovare è quello del modello standard, nel senso che in questo caso ce ne sarebbe uno solo, sappiamo più o meno intorno ormai a quale massa ce lo dovremmo aspettare. Dovremmo trovarcelo tra, dovrebbe essere un oggetto che ha una massa tra le 120 volte e le 200 volte quelle di un protone, però questo è soltanto una delle possibili, è una delle possibilità, incarnazioni dell'Higgs. Se ad esempio fosse vera la supersimmetria, che è un buon candidato per spiegare la dark matter, di Higgs ce ne sarebbero 5, di cui 2 a masse abbastanza basse che le potremmo vedere con LHC e 1 o 2 a masse molto alte. Per cui in questo caso qui, se troviamo un Higgs soltanto, dobbiamo intanto capire se questo è l'Higgs dello standard model o se è l'Higgs della supersimmetria. Quindi per dirlo in termini polizieschi, voi avete individuato, come dire, la configurazione, i tratti del personaggio, ma non sapete che faccia ha. Esattamente, esattamente. Adesso volevo chiederle un'altra cosa, Bertolucci, una sua opinione. Avremo modo di parlare nei prossimi mesi, spesso credo, della ricerca di Higgs. Senta, io ho la sensazione che si sia sviluppato intorno a questa grande macchina, a livello generale, un grande affetto. Insomma, c'era stata una forte preoccupazione perché si era fermata, adesso riprende. Insomma, c'è un'attenzione, è come se nell'inconscio ci fosse la percezione che questo oggetto sta per aprire degli scenari. Un bisogno quasi di un futuro diverso da un presente che in questi mesi e in questi anni è molto difficile. Non ha questa percezione? Io ho esattamente questa percezione, tra l'altro ci riempie di orgoglio e anche di responsabilità da questo punto di vista, ma ho esattamente questa percezione, c'è un grande interesse, un interesse sincero, una voglia di meravigliarsi con noi delle stesse cose che noi potremo e speriamo di scoprire anche presto. Grazie Bertolucci, ci sentiremo nelle prossime settimane. Vi ricordo che c'è un bellissimo sito www.infn.it/LHC Italia nuovo che segue l'attività di ricerca della grande macchina ginevrina. L'ultimo numero della edizione americana della rivista Wired pubblica una singolare tabella delle emissioni corporali umane. Non fraintendete, sto parlando di emissioni sonore, elettriche e termiche, che sono non poche, ed è interessante sapere a che distanza possono essere rilevate. Cominciamo dal respiro. Ha una sua sonorità leggera, ma neanche tanto, siamo fra i 10 e i 15 decibel. Come lo si può rilevare? Con un microfono parabolico come quelli che usano i servizi segreti. Ecco, questo riesce a individuare un respiro a 25 metri di distanza. Però il respiro è anche emissioni di CO2. Ci sono dei sensori specializzati nel rilevamento di emissioni di gas che possono catturare questi segnali. Qui però una distanza precisa non è possibile definirla perché le variabili sono molte, sia relative ai prodotti della respirazione che alle condizioni al contorno atmosferiche. Va bene, lo sappiamo, emettiamo anche odori. Sono secrezioni di sostanze chimiche. Con dei nasi artificiali possiamo individuare queste emissioni a una distanza di 15 metri circa. C'è qualcosa del nostro corpo che produce un suono molto preciso? Vi viene in mente? Sì, certamente, è il cuore. Però il segnale più interessante che si può catturare concentrandosi sul cuore è quello elettrico, perché il cuore è governato da una costante attività elettrica che varia dai 0,5 ai 3 millivolt. Ci sono dei sensori di potenziali elettrici e questi individuano il segnale del cuore a non più di 3 o 4 metri. intorno ai 200 microvolt troviamo l'attività elettrica del cervello. Questo però è un segnale molto debole e quindi si cattura a pochi millimetri dal cranio. E se il tempo è buono, che cosa si può individuare del corpo a quasi 20 km di distanza? La risposta è il nostro calore. Ci vuole una macchina fotografica che registra le emissioni termiche e anche un po' di tempo di esposizione, ma neanche tanto. Questi segnali sono importanti o nocivi? Importanti perché nel caso di eventi naturali poco favorevoli, di incidenti, un terremoto per esempio, si possono usare per individuare dei feriti privi di conoscenza e a seconda delle condizioni ambientali si può usare una tecnica o l'altra. Nocivi invece se qualcuno vuole usarli, non tutti ovviamente questi segnali, ma quelli che si possono rilevare a distanze maggiori, se qualcuno insomma ci sta spiando per poi farci qualche brutto scherzo. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ogni tanto ci divertiamo a dire, quando arriva il nostro quiz, che è il più corto mai fatto. Questo in assoluto è cortissimo. Siamo arrivati quindi al nostro gioco. Pronti? Allora, la domanda è la seguente. L'acqua frizzante è più pesante di quella naturale? Tre possibilità. Più pesante, ci scriverete più. Meno pesante, ci scriverete meno. Terza possibilità, dipende, e ci scriverete dipende. Che cosa si vince? Il libro Mai più paura della matematica, come far pace con numeri e formule, di Giovanni Filocamo, edito da Kowalski. Il libro, ne abbiamo parlato la scorsa puntata, quindi se volete sentire l'intervista con Filocamo andate al nostro sito. In collaborazione con IBS.it. Nanomateriali porosi, di questo vi parlerà adesso Chiara Albicocco. I pori sono già piccoli, qui si parla di nanopori. E poi la cosa sorprendente, come spessissimo accade quando si entra nel terreno sconfinato della scienza dei materiali, è che le applicazioni di un singolo prodotto della ricerca sono molto molto diverse fra loro. Ascoltiamo. Packaging intelligente, ma anche sensori per gli esplosivi e addirittura medicinali autosomministranti. Sono queste le prossime applicazioni dei nanomateriali porosi, di cui questa sera ci parla Gaetano Guerra. Gaetano Guerra è professore di chimica delle macromolecole presso il Dipartimento di Chimica dell'Università di Salerno. Su cosa sia un oggetto poroso ci possiamo arrivare. Abbiamo tutti presente le spugne e la pietra pomice. Quello che ci lascia un po' perplessi è il prefisso nano. Appunto, che cosa significa materiale nanoporoso? Nano ormai è una parola che si usa dappertutto. In questo caso specifico significa che le cavità, i pori, sono di dimensioni comparabili a quelle di singole molecole. Magari molecole grandi, ma di molecole. Quindi avere la capacità di inserire in singoli buchi, in singole cavità, delle singole molecole o un numero comunque limitato di molecole. Per dare un'idea di quanto possa significare questo in termini di superficie, questi materiali possono arrivare a una superficie di 1000 metri quadri, ripeto, per dare un'idea, quindi la dimensione è gigantesca, per ogni grammo, un solo grammo di materiale. Quindi un solo grammo di materiale può arrivare a una superficie di 1000 metri quadri. Una superficie assorbente enorme. Enorme, e questo dà la possibilità di assorbire ogni tipo. E poi c'è questa possibilità, da un lato la superficie enorme, poi ci sono questi due sottocasi. Un primo sottocaso in cui questa superficie è distribuita in maniera disordinata e quindi sono assorbite molecole di ogni genere e specie, ma c'è un altro caso più selettivo, che è quello di cui in particolare mi occupo io e tante altre persone nel mondo, in cui le cavità sono tutte uguali tra di loro e quindi ovviamente sono più selettivi, mirati a prendere solo certi tipi di molecole. Ora noi parliamo di polimeri. Polimeri, per chi non lo sa, sono i bicchieri di plastica, i cucchiaini del caffè. Ora, con questi nuovi materiali, con queste nuove tecnologie che voi avete sperimentato, avete trovato appunto che si possono costruire questi materiali con cavità, con pori, tutti uguali. E allora quali sono le possibili applicazioni di questi materiali? Quella più facilmente intuibile è quello di rimuovere gli inquinanti dall'aria e dall'acqua. Quindi un'attività di purificazione. Purificazione, sì. È possibile concentrare a livello fino al 5-10% in peso, quindi 10% in peso del materiale diventa detta questo inquinante che era disperso in parti per milione o in parti per bilione. Parti per milione significa che c'ho un milione di molecole d'acqua e una sola di queste molecole, ovviamente è difficile andarla a catturare con mezzi ordinari. Un'applicazione invece molto curiosa di cui lei ci ha parlato è in campo ortofrutticolo, possiamo dire così. Una delle prime applicazioni che pensiamo possa andare effettivamente in produzione prima o poi, ci stiamo puntando, è quello di utilizzarle per catturare l'etilene che viene spontaneamente emessa dalla frutta come segnale di maturazione. Come segnale. Quando la frutta è matura emette etilene. E allora voi che cosa avete pensato? Sì, un po' tutti sanno che la frutta emette qualcosa che fa maturare le altre frutte. Tutti sappiamo che bisogna mettere delle mele acerbe vicino alle mele mature per farle maturare più rapidamente. E tutto ciò è dovuto al fatto che le molecole mature emettono etilene e fanno maturare tutte le altre. Ora, questo è un processo gradito spesso a casa, ma sgradito nei supermercati e nei punti di stoccaggio. Quindi, da chi li vende? Quindi bisogna cercare di eliminare l'etilene, altrimenti la frutta matura troppo in fretta. È la cosiddetta vita di scaffale o shelf life, ormai si usano parole inglesi dappertutto, quindi vita di scaffale, bisogna cercare di prolungarla. E questo materiale, l'idea è di fare un imballaggio, quindi di andare al supermercato e trovare la frutta, non nel solito imballaggio preziosissimo che serve a evitare che la frutta sia sporcata, sia inquinata, ma un imballaggio uguale a quello che avete adesso, ma in cui ci siano questi pori che attraggano l'etilene, rimuovono l'etilene e quindi faccia sì che la frutta possa rimanere lì sullo scaffale un tempo maggiore per i nostri acquisti. Un packaging intelligente. Esatto, è proprio il termine che si usa, packaging attivo credo che sia il termine che usano, ma anche intelligente. Quello che più si usa attualmente è attivo, nel senso che l'imballaggio non solo serve a proteggere, ma anche una funzione molecolare. Ecco, e ora guardiamo al futuro, vediamo un po' quali saranno le frontiere. Sì, alcune sono già mature, ma poi il successo commerciale è tutto da dimostrare. Per esempio in sensori molecolari. Sapete che molto spesso il problema non è tanto catturare le molecole, ma sapere se ci sono in tracce delle molecole. Questo per esempio è un classico problema di chi vuole scoprire se si trasportano esplosivi. Questo è un problema reale che esiste per esempio nei valichi. Bisogna avere dei sensori che rilevino tracce di piccolissime quantità di molecole che siano o esplosivo o precursori di esplosivi. In questi casi è importante mettere a punto dei sistemi che siano in grado di concentrare queste molecole per poterle rilevare e quindi individuarle eventualmente nel vostro bagaglio. E poi un'applicazione in campo farmaceutico. Farmaceutico sono cose che già si fanno con altri sistemi, per esempio il rilascio di farmaci. In questo caso uno può mettere in queste cavità certi farmaci e deciderne la velocità di rilascio semplicemente cambiando l'orientazione nello spazio di questi materiali. Un'applicazione un po' più sofisticata, ma non ne vorrei parlare un po' troppo. È mio ospite questa sera Pietro Danise. Buonasera Pietro Danise. Buonasera. Insegnante della Scuola Media Rinascita di Milano e anche coordinatore di scienza Under 18, ne abbiamo parlato altre volte nella nostra trasmissione. Danise, voglio subito incominciare sentendo una ragazza che parla dell'uovo nella bottiglia. Ciao a tutti e benvenuti al mio video di scienze. Oggi voglio proporvi un esperimento dal titolo Mistero dell'uovo nella bottiglia. Come far entrare un uovo in una bottiglia? Procuratevi una bottiglia di vetro, una fiamma, un pezzettino di carta di giornale e un uovo sodo. Bruciate il pezzettino di carta di giornale con la fiamma e cercate di metterlo nella bottiglia. Il più velocemente possibile mettete l'uovo sul collo della bottiglia e, sperando che vada dentro, aspettate un pochino di secondi. Cercate di direzionare l'uovo. Esperimento riuscito, signori! È un miracolo! Un applauso! Come potete notare, l'uovo è entrato nella bottiglia, dato che la fiamma, cioè il giornale bruciato, ha assorbito l'ossigeno e quindi la combustione ha tolto l'aria. L'uovo è stato risucchiato nella bottiglia e, vabbè, anche se si è rotto, comunque è entrato nella bottiglia. Un applauso al nostro esperimento! Danise, questo è uno dei tanti video che sono stati presentati in questo weekend al Piccolo Teatro di Milano. Sì, all'interno di una manifestazione che si chiama Performing Teatro Scienza, che noi come Scienza Under 18 abbiamo portato avanti tutto l'anno insieme a diversi enti, tra cui il Politecnico, il Piccolo Teatro, la Fondazione Tronchetti Provera, la Fondazione Veronesi, l'Università degli Studi di Milano. Okay. Scienza Under 18, va bene, si capisce già di per sé. Voi da parecchio tempo, diversi anni, state facendo lavorare quelli che al massimo hanno 18 anni, ma si comincia dalle medie. No, si comincia dalle materne. Pensiamo, addirittura sì. Dalle materne gli fate produrre le cose più diverse che poi diventano video, spettacoli teatrali. Ho visto anche delle cose molto divertenti, dei telegiornali finti con notizie scientifiche. È veramente uno spettro molto ampio di attività. Sono tutte cose che ruotano intorno alla rappresentazione di temi scientifici. Esattamente. Come Scienza Under 18 diamo è una possibilità, diciamo, che diamo alle scuole di mettere in mostra quello che normalmente viene prodotto nelle scuole in campo scientifico, e le assicuro che ci sono sempre delle sorprese, perché le scuole hanno una creatività molto alta. Ho visto un sito nel quale sono contenuti diversi di questi lavori, anche qui basta andare al nostro sito www.moebiusonline.eu e ci sarà il link al sito che li contiene. Ho visto anche moltissime ragazze partecipare, questo è piuttosto interessante. Sì, è interessante perché, come dire, hanno le stesse possibilità, le pari opportunità rispetto ai ragazzi. La particolarità del nostro progetto, diciamo, di Scienza Under 18 è che non è un concorso, diciamo, per piccoli G, dove magari c'è una selezione e poi entrano in campo magari tanti effetti anche tipo psicologico. Sì. Noi tendiamo a far partecipare a questi progetti tutta la classe, e quindi anche le ragazze sono molto combattive e tirano fuori poi anche delle creatività particolari. C'è proprio anche a volte si può anche studiare una differenza di genere. Diciamo, una certa specificità. Ci sono anche delle rappresentazioni di mezz'ora con 20-25 fra ragazzi e ragazzi, cioè proprio tutta la classe che sale sul palco. Sì. Danise, grazie. Cominceremo a parlare di cose che insieme si potranno fare, ci sentiremo nelle prossime settimane. Mi pare che in questa direzione di riuscire a sviluppare la creatività verso la scienza sia estremamente interessante. Grazie e grazie, buon lavoro. Siamo molto interessati. Ci sentiamo allora. Combineremo qualcosa insieme. A presto, Danise. Sì, sono tempi difficili in generale, in particolare per il nostro paese e ancora in particolare di più per quanto riguarda la ricerca. Il Centro di Ricerca Matematica Ennio De Giorgi, l'acronimo è CRM, è un centro prestigioso. Ennio De Giorgi è stato un grande matematico italiano e si trova questo centro alla Scuola Normale Superiore di Pisa, già un centro di eccellenza. Mariano Giaquinta è il direttore del CRM e ha lanciato un appello per salvare la sua struttura. Nei 10 anni della storia di questo centro sono passati 4.000 ricercatori di tutto il mondo, gli stessi a cui ora questo direttore, Mariano Giaquinta, ha scritto, pensate un po', per chiedere un contributo che possa finanziare la ricerca delle giovani leve della matematica. Questa crisi economica si è infatti abbattuta pesantemente sulle finanze del centro, la cui unica fonte di finanziamento sono le tre università di Pisa, anch'esse alle prese con ristrettezze inaudite. Dal momento però che i tentativi di avere fondi dalle istituzioni locali, pubbliche e private, e a questo punto non hanno dato ancora risultati, allora il direttore del Centro Ennio De Giorgi ha detto, insomma, rivolgiamoci a dei tanti che sono passati di qui, hanno imparato cose importanti, se incominciano a fare una colletta e a darci un po' di soldi, può darsi che le altre istituzioni si tirino sulle maniche e facciano arrivare i loro finanziamenti. Tempi difficili, sì. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono qua in attesa trepidante, fra pochi secondi sapremo, ascoltatore, ascoltatrice, ben compreso, di quale diavoleria gastronomica Chiara Albicocco e il nostro professor Cassi stanno per parlarci. Dico, non dire così diavoleria, che poi sembra che sono tutte cose naturali di cui spieghiamo sempre i procedimenti, questo l'abbiamo sempre detto, eccetera, sì. Eccetera. Allora, diamo il benvenuto al professore. Buonasera, professore Davide Cassi. Buonasera. Il nostro fisico buongustaio dell'Università di Parma. E questa sera vogliamo parlare di un'intuizione veramente geniale di uno degli chef internazionali più famosi, che è Ferran Adrià, che è anche amico del professore, diciamolo. Parliamo della sferificazione, dell'intuizione. insolito caviale. Professore, a lei la parola. La storia è abbastanza divertente. Qualche anno fa i clienti del Bugli, che è il ristorante di Ferrano Adrià, si trovarono servito a tavola uno stranissimo piatto. Era una scatola di metallo, simile alle lattine di caviale, con scritto caviale il Bugli. Solo che il caviale all'interno, di colore arancio, era un caviale di melone. Ah. No, mi scusi, cosa, no, cosa vuol dire caviale di melone? Il caviale non sono uova di... Aspetta! Ah, devo aspettare, va bene. Chiaramente era un'imitazione, fatta sulla falsa riga addirittura della cucina degli antichi romani che camuffavano un pollo da pesce, per intenderci. Ha ragione, è vero, è verissimo questa cosa. Insomma, si trattava di palline della dimensione delle uova di storione, sì, di forma perfettamente sferica, da qui il termine sferificazione, di colore arancione, mm, che una volta mangiate sprigionavano all'interno succo di melone. Mm. Pensa tu. Come aveva fatto? Allora, un sogno dei cuochi da molto tempo era quello di riuscire a richiudere un liquido all'interno di una capsula solida commestibile, e possibilmente anche compatibile con il sapore del liquido che stava dentro. A un certo punto i fratelli Adrià, perché con lui lavorava anche Alberti, il pasticcere, si trovarono a sperimentare con l'alginato di sodio, che è una sostanza comunemente utilizzata sia dall'industria alimentare che dall'industria farmaceutica per preparare, per esempio, le capsule delle medicine. Ora, l'alginato di sodio è una molecola curiosissima. È formata da una lunga catena di acido alginico che ai lati ha atomi di sodio. Quando queste catene vengono in contatto con degli ioni di calcio, succede una cosa molto particolare. L'ione sodio se ne va, subentra lo ione calcio, che però, essendo bivalente, riesce ad attaccarsi a due catene distinte di alginato e non ad una sola. Cosa succede a questo punto? Le catene si intrecciano e formano un tessuto, una pellicola impermeabile. Questo è noto. Ecco, sembra complicato, ma in realtà formano questa membrana praticamente un pochino più solida rispetto al liquido. È una membrana flessibile, commestibile, ma la cosa interessante era come trasformare questa tecnica, che peraltro era nota all'industria, in un'idea, in un'intuizione gastronomica. Ecco qua. Ecco, l'esperimento consiste in questo. Se noi mescoliamo l'alginato, in piccole dosi chiaramente, a un liquido, che nel caso specifico poteva essere succo di melone, e poi lasciamo cadere delle goccioline di questo liquido all'interno di una bacinella che contiene acqua e un sale di calcio, nel caso specifico cloruro di calcio, cosa succede? Le goccioline, tanto per cominciare, sono di forma perfettamente sferica per note leggi della fisica. Entrano a contatto con questa soluzione e alla superficie, istantaneamente, gli ioni calcio vanno a sostituirsi al sodio e quindi si forma una pellicola impermeabile che racchiude al suo interno questa sfera di liquido di melone e forma una pellicola impermeabile, appunto, che non lascia più penetrare questa soluzione. Si formano tante piccole sfere con il cuore tenero. Con il cuore liquido, addirittura. A questo punto poi potete vedere tutti i passaggi nei nostri video, chiaramente. Ecco, bravissimo, ricordiamolo. Nel nostro blog curato dal professore, blog.moebiusonline.eu, abbiamo il video della sferificazione. Noi abbiamo creato nel nostro piccolo il caviale alla menta, mentre lo chef Luciano Tona, il direttore didattico di ALMA, la Scuola Internazionale di Cucina Italiana, ha preparato, Federico, una meraviglia. Mm. Un uovo, come se fosse un uovo all'occhio di bue, ma in realtà era un dolce. Ecco. Perché ha utilizzato la sferificazione con il succo di mango. Professore, ci spieghi. Sì, con delle gocce, fra virgolette, decisamente più grosse. Perché il fatto è che non possiamo fare solo queste palline piccole. Usando degli appositi cucchiai possiamo fare delle sfere più grosse che possono assomigliare al tuorlo d'un uovo. Con una siringa possiamo produrre anche degli spaghetti che all'interno sono ripieni di liquido. Insomma, non c'è limite alla fantasia, ma è molto bello vedere la preparazione. Un'ultima avvertenza è questa: lavate accuratamente queste palline in acqua fredda una volta che le avete preparate, perché il cloruro di calcio è amarissimo. E quindi non fa male alla salute, ma è assolutamente immangiabile. Ok, non fa male, però insomma conferisce un gusto diverso da quello che vorremmo. Ecco, allora noi invitiamo tutti a guardare il nostro video su blog.moebiusonline.eu e professore, allora ci sentiamo nelle prossime puntate per probabilmente dare qualche ricettina sfiziosa per il Natale. Ovviamente, prepareremo un menù. L'aria negli uffici spesso è pesante, sì, adesso penserete alle tensioni fra colleghi, alle liti, alle divergenze con le decisioni dei boss. No, qui l'aria è proprio l'aria. C'è un nuovo strumento che può facilmente misurare la sua qualità negli ambienti in cui operano molte persone. È Maurizio Melis che ve ne parla. C'è molta attenzione per la qualità dell'aria in tutta una serie di ambienti, per esempio gli ambienti industriali, soprattutto nei cosiddetti ambienti a rischio. Restano però tagliati fuori dai controlli delle ASL e dai controlli anche di coloro che conducono questi ambienti tutta una serie di locali nei quali poi spesso passiamo moltissime ore. Sicuramente è il caso degli uffici, ma è anche il caso di casa propria, dove ci sono delle fonti di inquinamento che spesso tendiamo a sottovalutare. Per cercare di, come dire, fare un po' di luce sulla qualità dell'aria di ambienti che appunto sono normalmente poco monitorati, sta arrivando un kit, probabilmente sarà in commercio tra circa un annetto, sviluppato da una società che si chiama Neomed, che normalmente produce e commercializza prodotti per analisi di laboratorio, che in questo caso invece si rivolge al largo pubblico. È un progetto questo che nasce in collaborazione con l'Università degli Studi della Bicocca, in particolare con il Dipartimento di biotecnologie e bioscienze. Parliamo di tutto questo con il professor Francesco Peri e con il ricercatore Massimo Labra, che si sono occupati, appunto, si stanno occupando di questa ricerca. Buonasera a tutte e due. Buonasera. Dunque, Peri, io inizierei con lei. Ci faccia un po' il quadro non terroristico, possibilmente, di quali sono, come dire, i pericoli che incombono sul nostro sistema respiratorio in casa e in ufficio. Sì, dunque il quadro non deve essere terroristico, anche se appunto, come diceva lei, in Italia questi parametri di inquinamento dell'aria non vengono monitorati, mentre in tanti stati della comunità europea, come negli Stati Uniti e nel Canada, vengono monitorati in ambienti chiusi come appunto uffici, scuole, eccetera. Si tratta di andare a analizzare l'aria per quanto riguarda una serie di sostanze organiche che si chiamano VOC, un simbolo che vuol dire sostanze organiche volatili, si possono trovare nell'aria, che derivano da una serie, possono derivare da una serie di componenti dell'arredamento, anche quindi la famosa formaldeide dei tavoli, eccetera, eccetera. Queste sostanze possono, se superano una certa soglia, avere degli effetti, diciamo, nocivi sulla salute, nel senso che generano irritazioni delle vie respiratorie e sindromi legate a questo. Un'altra fonte di inquinamento significativa, mi pare di aver capito, che sono i fornelli, quelli con cui cuciniamo a casa nostra. Infatti pochi lo dicono, ma la combustione dei fornelli è la principale fonte nelle case di inquinamento. E parlando di luoghi pubblici, uffici, appunto scuole ed altro, non ci sono solo queste sostanze organiche, ma ci sono una serie di altri inquinanti che derivano anche dalle combustioni esterne, insomma, e che poi vengono trattenute all'interno dell'edificio. Un'ultima componente che noi analizzeremo con il nostro kit sono appunto le endotossine batteriche. Le endotossine batteriche sono semplicemente dei frammenti delle molecole derivanti dalla parete dei batteri. Queste molecole si trovano nell'aria veicolate dalle famose polveri sottili, quindi dal particolato atmosferico, e anche se inalate in quantità superiore a una certa soglia limite, generano delle malattie respiratorie anche importanti, tipo asma, infiammazioni, eccetera. Ecco, visto che stiamo su questo fronte delle endotossine batteriche, tipicamente in quali luoghi abbondano queste endotossine? Questo è un punto interessante, perché queste endotossine abbondano in luoghi insospettabili, tra virgolette, cioè possono essere molto alte in alcuni tipi di industrie manifatturiere, dove si lavora anche cuoio, legname, eccetera, eccetera, ma possono essere elevate anche negli uffici. Una volta monitorate, la domanda può essere: come facciamo a tenere sotto controllo questo inquinante? Una volta che abbiamo visto che c'è, come corriamo ai ripari? Alle volte può essere molto semplice, nel senso che la diminuzione dei livelli di umidità nell'aria, piuttosto che diciamo tenere un livello di igiene più elevato dell'ambiente, potrebbe essere sufficiente per abbassare i livelli di queste endotossine nell'aria, insomma. Dunque, Labra, lei invece si è concentrato soprattutto sugli inquinanti chimici. Quali sono gli inquinanti chimici che minacciano la nostra salute? Certo, esattamente. Noi ci stiamo un po' concentrando su quali sono i principali agenti chimici che possono essere presenti, diciamo, all'interno delle nostre case, piuttosto che nei nostri uffici, nelle scuole, eccetera. Quello che stiamo facendo è innanzitutto un monitoraggio di alcuni locali, di alcune aree, ovviamente in questo caso della zona di Milano, per capire per esempio la presenza di monossido di carbonio, di composti volatili, organici di diversa natura, che possono, come diceva lei giustamente prima, derivare anche da semplici e comuni operazioni come l'uso di fornelli, di caldaie, piuttosto che di stufe. Una volta identificati e valutati, diciamo, i principali presenti e quelli che hanno delle concentrazioni, diciamo, ingenti o comunque che possono arrivare a essere tossiche per la salute umana, ci concentreremo su sviluppare dei sistemi di analisi semplici e molto rapidi. Ecco, mi sembra interessante capire meglio questo punto. Fisicamente, chi acquisterà questo kit, che cosa si troverà per le mani? Dunque, la nostra idea è quella di fornire uno strumento affinché si possa facilmente capire se l'aria che stiamo respirando è di buona qualità, di media qualità o di bassa qualità. Quindi ci immaginiamo un prodotto tipo test di gravidanza, un sistema colorimetrico che attraverso l'immersione in un certo volume di aria, per un certo tempo determina una variazione di colore che ci dice: bene, nella tua aria c'è del monossido di carbonio in questa quantità, quindi puoi star sicuro perché è sotto un livello di soglia, oppure è un po' più elevato e quindi in questo caso la tua aria non è più, come dire, salubre. Per esempio, insomma, assicurati che la cappa funzioni bene, quella della cucina. Assolutamente, area locale, ridurre la presenza di umidità, spesso anche la semplice umidità può determinare la crescita di muffe, eccetera, che possono a loro volta determinare aria di cattiva qualità. Dunque, Peri, quanto costerà questo kit e dove si potrà recuperare? Dunque, è abbastanza difficile dare una cifra esatta. La nostra idea era che potesse essere accessibile economicamente, non proprio a tutti, ma insomma alle persone che volessero monitorare la qualità dell'aria, quindi stiamo parlando di decine di euro e quindi e non centinaia di euro. D'accordo. È chiaro che c'è un anno di sviluppo del progetto e quindi in base anche alla forma finale del kit potrà essere data la cifra esatta, insomma. D'accordo, ma è un usa e getta, si usa una volta sola o magari due o tre cartine dentro ci sono? Sì, no, non dovrebbe essere usa e getta, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio delle endotossine, che è la parte veramente innovativa del kit, perché allo stato attuale non esiste appunto neanche negli altri stati europei. Dovrebbe essere un qualcosa che consente di fare un numero di analisi che copra periodi di mesi, se non di anni. Quantomeno per vedere se le azioni poi messe in campo per correggere i problemi hanno avuto buon esito. Monitoraggio continuo che dia degli andamenti, diciamo, di questi agenti inquinanti, senz'altro. Va bene, grazie Francesco Peri, grazie Massimo Labra, buon lavoro per lo sviluppo di questo kit. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ve la ricordate la domanda del nostro quiz velocissima? L'acqua frizzante è più pesante di quella naturale? La risposta giusta è dipende. Infatti, ragionate, se la bottiglia di acqua frizzante non è scossa, allora la CO2 che contiene, la CO2 è il gas che rende frizzante, ricordiamolo, l'acqua, è sciolta in quest'acqua e quindi abbiamo un qualcosa che aggiunge peso. Ma se scuotiamo la bottiglia, allora il gas si attiva, diciamo così, si formano le bolle e queste occupano uno spazio che viene tolto all'acqua. Ecco quindi che lo stesso volume d'acqua peserà meno. Ovviamente le differenze sono minime. Ci sarebbe poi da aggiungere che l'acqua non è uguale dappertutto, ci sono acque più ricche o meno di sali e anche questo fa una certa differenza. Quindi, diciamo, dipende è proprio la risposta più generale. L'avete sentito nei titoli, abbiamo parlato di un sito internet dedicato all'esperimento più bello del mondo. Insomma, abbastanza impegnativo. Per parlare di questo sito internet ho con me ospite questa sera Giorgio Lulli. Buonasera Lulli. Buonasera Pedrocchi. Ricercatore del CNR di Bologna, dell'Istituto di Microelettronica e Microsistemi. Però questo sito, Lulli, nasce, lei ne è il curatore coordinatore, da un pool di diversi ricercatori che bene o male afferiscono poi al Dipartimento di Fisica dell'Università di Bologna. Ecco, senta, l'esperimento più bello del mondo, qui dobbiamo incominciare a dire che cos'è il bello, cioè è l'esperimento più strano, l'esperimento più curioso, l'esperimento più sorprendente, direi, no? Sì, sicuramente questo esperimento nella fisica ha fatto, diciamo, vedere dei fenomeni che sono sorprendenti, soprattutto perché vanno contro a quella che è l'intuizione comune. Qualunque possibile buonsenso. Quello che noi dobbiamo cercare di fare insieme, Lulli, vediamo se ce la facciamo, è proprio suggerire ai nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici di andare a questo sito, di dedicare una mezz'ora, tre quarti d'ora, possono starci anche molto di più, e provare a fare l'esperienza, un'esperienza di conoscenza che effettivamente è abbastanza unica. L'esperimento è l'esperimento centrale della meccanica quantistica, scienza già strana di cui noi ogni tanto parliamo in onda e che appunto ci lascia sempre delle grandi sorprese. Vogliamo provare a incominciare a descrivere i contorni, insomma, più curiosi di questo esperimento. Immaginiamoci una parete di ferro che ha dentro due fenditure. Queste due fenditure quanto sono larghe e lunghe? Diciamo, se pensiamo di fare questo esperimento prima di tutto usando, per esempio, non so, delle palline da tennis. Un cannoncino che spara delle palline da tennis. Esattamente, che spara delle palline da tennis. Abbiamo davanti un muro con due tagli verticali che chiamiamo fenditure, uh-huh, e potrebbero essere larghe un 15-20 centimetri, e dietro a questo muro con i tagli abbiamo poi un altro muro dove le palline che arrivano, che superano queste fenditure, che arrivano, lasciano un segno. Un segno, magari sono delle palline con su un po' di inchiostro. Esattamente. E il cannone ne spara tante. Ne spara tante, e noi quello che in fondo ci aspettiamo di vedere dopo un po', dopo che ce ne sono accumulati parecchi di questi segni, è di avere due strisce non perfettamente definite, ma due strisce che in qualche modo si trovano in corrispondenza di questi due tagli che le palline hanno attraversato. E in effetti è proprio quello che noi vediamo. E questo è quello che vediamo. Ci sono ovviamente alcune palline che sono un pochino più disperse, ma questo è dovuto a un fatto abbastanza semplice. Esatto, alcune magari scontrano col bordo della fenditura e quindi vanno un po' a destra, un po' a sinistra. A destra, un po' a sinistra, ma si vedono comunque in modo abbastanza chiaro due strisce. Ecco. Va bene, adesso passiamo alla fase successiva. Diciamo che questo che abbiamo visto fino adesso è quello che ci si aspetta, il comportamento che ci si aspetta da degli oggetti materiali, no? Delle particelle, delle palline. Ora, se questo esperimento viene fatto invece con delle onde, con le onde, per esempio le onde, pensiamo alle onde sulla superficie di un liquido. C'è uno stagno, buttiamo un sasso, si creano queste onde. Buttiamo un sasso, abbiamo sempre due fenditure e dietro a queste abbiamo uno schermo, e sullo schermo andiamo a vedere, diciamo, il liquido che si muove quando arriva su questo schermo, le oscillazioni che ha il liquido su questo schermo che abbiamo dietro le fenditure. Allora, l'onda innanzitutto è un qualcosa che non è come una pallina, cioè non ha una localizzazione precisa nello spazio, si estende, no? Noi mettiamo un sasso nell'acqua, vediamo delle superfici, dei fronti d'onda circolari che si allargano. Allora, i fronti d'onda circolari investono entrambe le fenditure, e ciascuna fenditura, per un effetto che possiamo semplificare come quello di un'antenna, a sua volta diventa sorgente di altre onde circolari. Quindi ci sono due fenditure, due onde circolari che si propagano al di là di questo muro e interferiscono tra di loro, interagiscono. Ora, il caso delle onde è diverso da quello delle palline. In questo caso succede un fenomeno: laddove le onde si incontrano, quando abbiamo per esempio delle sollecitazioni nel liquido che vanno in senso opposto, cioè per esempio abbiamo una cresta di un'onda che si incontra con la valle di un'altra, questi due effetti si annullano. Cioè, noi abbiamo delle regioni praticamente del liquido dove il liquido non si muove, sebbene sia sottoposto all'influenza di due onde. Però una cancella l'altra. La somma di questi effetti si cancella. Quello che si osserva sullo schermo, appunto, che abbiamo detto da di dietro a queste nostre fenditure, è una, non sono più le due strisce che vedevamo prima, ma è una figura più complicata, una figura di interferenza si definisce, dove abbiamo una molteplicità di strisce che non corrispondono necessariamente alla posizione delle due fenditure. Sì. Una cosa del tutto analoga avviene, e questo lo vediamo nel sito, con la luce. Se noi facciamo un esperimento analogo con la luce, vediamo allo stesso modo che abbiamo appunto anche qui una serie di strisce luminose alternate a delle bande scure. Cosa succede se noi utilizziamo in questo esperimento degli elettroni? Allora, gli elettroni sono stati scoperti come delle particelle subatomiche alla fine dell'Ottocento e sono stati subito interpretati come delle piccolissime palline di materia. Sì. Se utilizziamo appunto queste cosiddette palline di materia per fare questo esperimento, qui otteniamo appunto il risultato, diciamo, sorprendente. Allora, supponiamo di fare appunto la stessa cosa e supponiamo di mandare questi elettroni. Supponiamo anche di mandarli uno alla volta, così in modo tale da esaminare in modo estremamente analitico il fenomeno. Allora, noi vediamo che parando un elettrone e andando a osservare quello che succede sullo schermo che sta dietro, quando pariamo un elettrone ci sarà una certa probabilità che questo elettrone attraversi le fenditure e arrivi allo schermo. Dopo un po' vedremo appunto apparire sullo schermo un puntino luminoso, e quindi vedendo questo puntino luminoso noi saremmo subito portati a pensare che l'elettrone si sta comportando come le palline che le palline da tennis. Bene, andiamo avanti, mandiamo un altro elettrone, ne mandiamo due, ne mandiamo tre, ne mandiamo tanti, migliaia, ma direi anche miliardi. Ecco, cosa vediamo? Vediamo che sullo schermo questi puntini, organizzandosi, formano una figura che però è fatta a strisce, cioè è una figura che è esattamente simile a quella dell'interferenza delle onde. E quindi il grande mistero è che abbiamo delle palline che sono contemporaneamente particelle, contemporaneamente onde. Cioè è una doppia natura, diciamo, della materia, che in certi aspetti si manifesta come palline di materia e per certi altri versi si manifesta come onda. Ecco, per concludere direi questo. Questo è uno dei più grandi e importanti esperimenti della scienza di tutti i tempi, ma per certi versi va al di là della scienza. È veramente una cosa misteriosa sulla quale si basa però la meccanica quantistica, che tra l'altro è una delle scienze sperimentalmente più verificate, pur nascendo, pur avendo la sua radice, questo mistero. Questo esperimento è stato descritto in tantissimi libri, in tantissime pagine, però quello che io voglio dire ai nostri ascoltatori e ascoltatrici è che effettivamente, se volete dedicare un po' di tempo, questo sito internet vi porta dentro questo mistero, ve lo illustra in modo molto dettagliato, e quindi io posso, lo devo dire io, no? Lulli, è un'occasione assolutamente eccezionale per riuscire a capire una delle cose più strane che ha prodotto la conoscenza umana, direi. Certamente. Giorgio Lulli, grazie. L'indirizzo del sito, che è un po' lungo, lo trovate sul nostro sito www.moebiusonline.eu. Grazie, arrivederci. Grazie a lei, arrivederci. I normodotati, ovvero tutti coloro che non hanno quei seri problemi fisici che impediscono di camminare o di usare braccia e mani, che costringono a muoversi su una sedia a rotelle. È difficile pensare, per chi non vive questa condizione, quanto possano essere multiformi le barriere che i non normodotati possono incontrare. Vi faccio riflettere su una di queste: aprire una porta, ovvero manovrare una maniglia, specialmente se ci si trova anche su una sedia a rotelle e non solo, con problemi agli arti superiori. Che l'operazione possa essere difficoltosa credo che non sfugga a nessuno, ma avete mai riflettuto su quanti tipi di maniglie ci sono? Ci sono quelle vecchie, per esempio, molto sottili, quelle con un'impugnatura grossa invece, ci sono i pomelli che bisogna ruotare, quelle con la sbarra di metallo in verticale oppure in diagonale e alla via così. Ecco allora che per ogni variabile una mano normale deve assumere posizioni diverse. Ma se ci sono problemi fisici, la situazione che viene a crearsi è che una persona apre certe porte, ma non molte altre. E in alcuni casi gravi, aprire una porta diventa sempre una vicenda ardua da portare a termine. Perché poi c'è anche da considerare un effetto combinato. Accade infatti che con una certa difficoltà si riesca a ruotare la maniglia e che però, messi in quella posizione appena ruotata, risulti molto difficile spingere la porta. Una giovane studentessa dell'Università del Massachusetts, Erin Capacchi, ha studiato un braccio robotico che si può facilmente installare su una qualsiasi sedia a rotelle. Il braccio è provvisto di una mano con quattro dita, ognuna delle quali è una specie di cuneo metallico ricoperto da una plastica che aderisce molto bene ad ogni superficie. Un semplice meccanismo elettromeccanico, attivabile anche con un dito, è in grado di manovrare il braccio e di effettuare contemporaneamente una spinta sulla porta. La struttura di base del marchingegno si basa su un principio molto semplice, se ci pensate. Henry Capacchi ha costruito una specie di bocca con quattro mandibole morbide, ma non troppo, che si chiudono provenendo da quattro direzioni opposte, diciamo dai quattro punti cardinali. Questo fa sì che qualunque forma di maniglia possa essere afferrata dalla mano robotica con una presa sufficientemente forte da poterla ruotare e spingere. Al momento siamo al prototipo, il cui costo tuttavia è di $2,000. Attenzione, per un prototipo questo è un costo decisamente basso, il che vuol dire che una produzione in serie potrebbe raggiungere prezzi assolutamente abbordabili. Insomma, tutto molto elementare. E quindi viene da chiedersi come mai non sia stata pensata prima una tale tecnologia. Dalla grande macchina che si è rimessa in moto all'esperimento più bello del mondo. Questi l'inizio e la fine di Möbius di oggi. Ci sentiamo la prossima settimana. Buona serata a tutti e a tutte.